dove gli angeli esitano. Incontri tra sacro e musica elettronica di Emanuele Pappalardo. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Emanuele Pappalardo. Eccoci dunque giunti all'ultimo incontro di questo ciclo di trasmissioni dedicate a esperienze compositive che abbiano avuto come centro il bisogno espressivo di elaborare testi e musiche di matrice sacra mediante l'uso di tecnologie più o meno recenti. Devo confessarvi che nel pensare in via teorica a questi incontri ero piuttosto spaventato, perché non sapevo come affrontare un tema così complesso. Mi sentivo anche abbastanza inadeguato ad affrontarlo, benché me ne sia più volte interessato molto concretamente come compositore. Ho anche tentato, per la verità, di rinunciare a questo impegno che avevo preso ormai da tempo, forse con troppa leggerezza, ma poi, grazie alla pacata e quasi impalpabile insistenza di Marco Di Battista, si sono allentati nel fare concreto i timori nell'entrare in questo luogo che abbiamo definito un luogo nel quale forse anche gli angeli esitano. E arrivati alla fine di questo ciclo di trasmissioni mi accorgo che a me in fondo hanno dato la possibilità di formulare esplicitamente alcune domande sulle quali riflettevo da tempo. Non è detto che a queste domande sia seguita una risposta, anzi, ma penso che sia di fondamentale importanza per l'essere umano riuscire a farsi domande sensate. Oltre che essere un compositore, ossia una persona che cerca consapevolmente di mettere insieme nel tempo eventi sonori che abbiano una sintassi, una semantica e una pragmatica, oltre che compositore, dicevo, sono anche un didatta, e ciò che dico sempre ai miei studenti è che la principale funzione di un insegnante non è quella di riuscire a insegnare alcunché, bensì di indurre chi ti sta davanti a formulare qualche domanda sensata. Abbiamo sfiorato in questi incontri il tema della pertinenza dell'utilizzo di musiche che facciano uso di tecnologie all'interno della liturgia. Sarà questo il tema centrale di questo ultimo appuntamento e lo faremo con Giacomo Baroffio, che insegna storia della musica medievale e liturgia alla Facoltà di Musicologia a Cremona, e con Don Luigi Garbini, che è responsabile delle attività musicali della Curia Milanese ed è coordinatore della rassegna La Musica dei Cieli ed è anche direttore artistico del ciclo di eventi multimediali curato dalla Diocesi Ambrosiana e denominato Pause. Garbini è inoltre anche ideatore e direttore artistico del singolare laboratorio di musica contemporanea al servizio della liturgia. Attualmente vi sono due CD che testimoniano i risultati del laboratorio mediante lavori di autori contemporanei, lavori pensati appositamente per la liturgia. L'ultima esperienza del laboratorio riguarda una messa elettronica. Ma prima di proporvi qualche esempio musicale, lascerei che fosse lo stesso Garbini a spiegarci cos'è il laboratorio. Ho incontrato pochi giorni fa Don Luigi nella chiesa di San Marco a Milano, chiesa della quale è anche viceparroco. Sì, il laboratorio nasce nel 2000, 1999, in quel Natale. L'idea era quella di riporsi il problema della committenza come chiesa, nel mio caso, e dall'altra sfatare quei dubbi o quella specie di steccato che si pensava chiuso in riferimento ad una scelta negativa, se vogliamo usare i termini tecnici di riferimento dagli anni 80 agli anni 90, rispetto a comporre, e quindi a questa problematica di lontananza, soprattutto a fronte delle scelte operate negli anni 60, alla fine nel Concilio Vaticano II, 60 e 70. Per riconnettere questo era importante innanzitutto avere a disposizione dei materiali e della strumentazione che ci permettessero anche di uscire in prima battuta dall'elemento classico di riferimento e quindi avere in qualche modo come referente tutti quei mezzi che sono necessari alla musica, e quindi avere a disposizione fin dalla prima ora l'orchestra dei pomeriggi musicali, grazie appunto a Carlo Perucchetti e alla sua collaborazione della prima ora, Da questo lavoro nasce la testimonianza che c'è anche su disco di Stradivarius di quelle due sessioni, che furono due sessioni che prevedevano l'esigenza di un affiancamento di cinque compositori più cinque, e quindi non monografiche, non affidate soltanto a un, ma attraverso un pool di persone che con me si sono incontrate diverse volte a riflettere sulle problematiche legate alla liturgia rinnovata, che significa in prima battuta delle esigenze nuove, nate assolutamente, in prima battuta certamente dal problema della lingua, e quindi comunque la grande riflessione su che strumento usare dal punto di vista della lingua, e anche il grande interrogativo sulla musicalità, della storia e sul repertorio gregoriano, naturalmente, su comunque tutta la tradizione che rimaneva punto di riferimento. Dall'altra invece, quali sono le esigenze interne, quindi i due punti cardine, se così vogliamo dire, che determinano l'andamento, quindi se vogliamo anche una vera dinamica e una logica della liturgia, che sono l'ascolto della parola e la celebrazione dell'Eucaristia, lo spezzare del pane. Ecco, questi due momenti rimangono centrali. Da queste esigenze nascono appunto in prima battuta la prima sessione con l'orchestra, con alcune problematiche che si sono cercate di affrontare e alcune domande. La seconda sessione invece fu quella con un organico ridotto, con coro e organo, e assemblea sempre ovviamente, e la terza è stata la sessione legata invece allo strumento elettronico, che era anche l'elemento verso il quale si voleva tendere, considerandolo appunto tanto quanto nel mondo dell'arte contemporanea l'immagine elettronica, il più immateriale, nello stesso tempo anche dal mio punto di vista il più vicino al sentore non solo nostro, ma anche della tradizione, e dal mio punto di vista anche il più vicino a poter dialogare con la sua immaterialità e con la sua poetica, proprio con tutta la tradizione legata al corpus gregoriano. Thank you. era un breve estratto dal brano che Michele Tadini ha composto per il momento della Eucaristia all'interno della messa elettronica eseguita nella chiesa di San Marco a Milano. La messa elettronica che è frutto del lavoro pluriennale del laboratorio di musica contemporanea al servizio della liturgia, laboratorio ideato e coordinato da Don Luigi Garbini. Uno dei problemi più rilevanti nell'ambito di sperimentazione di questo tipo riguarda, a mio avviso, la possibilità della partecipazione dell'assemblea alla parte musicale della liturgia. Oggi lo scenario acustico delle nostre celebrazioni è in media alquanto desolante e su questo punto, per la verità, sono in molti ad essere d'accordo. Ma vi proporrei a questo riguardo poche parole di Giacomo Baroffio che ho estratto da una lunga intervista che mi ha concesso nella sua casa di Cremona pochi giorni fa. Io dico ai miei studenti, ma quando voi andate a sentire un concerto di Ashkenazi, per poter partecipare veramente, fare un'esperienza emotiva profonda, autentica, coinvolgendo tutta la vostra persona, pretendete di andare lì e pigiare un tasto? A nessuno viene in mente una roba del genere. Io partecipo e posso fare un'esperienza profonda, vissuta, di un evento artistico, senza dover necessariamente contribuire alla realizzazione sonora di questo evento. L'importante è che l'evento mi tocchi e che io mi lasci toccare dall'evento. Cioè anche in questa dimensione l'essere prevale sul fare e sull'avere. Bisogna lasciarsi mettere in vibrazione dalla musica, entrare in simpatia. E a volte questo esige il silenzio, una immobilità che non è passività, qui c'è una grande confusione. Questo vale sempre per la musica, quindi anche la musica elettronica. Uno dice, ma è per specialisti. Gli specialisti guarderanno l'aspetto tecnico, ma io devo mettermi nelle condizioni di poterlo recepire e riconoscermi poi in questo. Partecipare cosa significa? Non rimanere strano, essere coinvolto, diventare protagonisti, ecco, di quello che succede. Ma uno può essere protagonista anche senza dire una parola e compiere un gesto. Poi in certi momenti è giusto farlo e non dico che bisogna non far mai nulla, non cantare mai, come quelli che dicono i testi latini hanno un alone di mistero, lì si percepisce meglio il mistero e quindi ne desumo il principio che per partecipare non devo capire niente. No, ecco, qui c'è una confusione di piani, cioè bisogna partire prima di tutto da non assolutizzare nessuna via e poi a seconda dei momenti io posso, ecco, equilibrare la celebrazione con interventi diversi. Però la premessa per tutto questo rimane un punto molto concreto, il tempo. Io mi chiedo, in Italia, tutta l'Italia, dove c'è un'assemblea liturgica disposta a stare 2 ore e mezza in una chiesa per una celebrazione eucaristica? Io l'ho vissuta a Vienna qualche anno fa, il giorno di Sant'Agostino, nella chiesa di Sant'Agostino. Tutta la messa è durata 2 ore e mezza. E c'era una messa per solisti, coro, orchestra e organo di Schubert, che hanno cantato i pezzi dell'Ordinario. L'assemblea è intervenuta con alcuni corali, credo 3 corali, e hanno cantato anche 2 pezzi gregoriani. Alla fine di tutto, quando si è arrivati sulle 2 ore e 10, 2 ore e un quarto, l'organista ti ha messo giù un pezzo di Vidor che è durato 1/4 d'ora, 20 minuti. 2 ore e mezza. Nessuno si è alzato, nessuno è fiatato, nessuno sbadigliava. Questo vuol dire che c'è proprio un livello di cultura da premettere che spesso manca, perché è proprio il tempo e il dare tempo alla liturgia con tutto quello che ciò comporta. Allora se uno ha uno spazio ampio può fare anche interventi diversificati, altrimenti si cercherà sempre la soluzione che dà meno fastidio o che è più sbrigativa. E questo è uno degli impedimenti più grandi allo sviluppo della musica nella liturgia. È dunque chiarissimo Baroffio nell'affermare che partecipare non vuol dire necessariamente emettere concretamente dei suoni. Su questo aspetto vi è stato molto probabilmente un fraintendimento del Concilio Vaticano II, fraintendimento cui fa riferimento anche Don Luigi Garbini in una recente intervista che ho trovato in internet e che gli ho chiesto di commentare. Il fraintendimento del Vaticano II cui accenno è precisamente ai testi che riguardano che cosa la liturgia deve offrire e nel rapporto con la musica, il fatto che si è dimenticato che in quei testi invece parlano di attenzione precipua alla tradizione del rito del canto gregoriano e poi anche l'ambizione del repertorio italiano. È quel fraintendimento che ha creato appunto tutto un movimento di rivalsa, per certi versi comprensibile storicamente per le esigenze e per il fattore di crisi che viveva il rito e il culto in quei momenti, ma che non ha beneficiato per niente un rapporto corretto e soprattutto che ha sbilanciato l'attenzione verso la presenza della musica. È inutile che io riassuma gli ostracismi che si sono vissuti e anche in rapporto a quelle persone che erano presenti e avevano un ruolo fondamentale dal punto di vista professionale, il cui ruolo soltanto in questi ultimi anni è stato recuperato dalle scuole di formazione tecniche, anche le scuole pontificie di musica sacra che sono nate esattamente per formare questi animatori che invece sono stati non solo scoraggiati, ma sono stati eliminati praticamente dalla formazione in nome appunto di uno stravolgimento del rito che non era subito e immediatamente quello che invece il documento diceva come urgenza in quel momento. Un fraintendimento è sicuramente questo, quello del garantire a tutti i costi la partecipazione, che vuol dire che chi è presente debba aprire la bocca, dimenticando invece che l'ascolto è interno a questa partecipazione, e dall'altro il fatto che circolano ancora dei repertori, reperti più che repertori di canti. Che non corrispondono più neppure alla liturgia da una parte, dall'altra la impoveriscono dal punto di vista, di qualsiasi punto di vista, non solo teologico, ma dal punto di vista poi musicale, armonico, melodico, eccetera, eccetera. Era un estratto da Liturgia della Parola, un brano composto da Jacopo Babboni Schilingi per la messa elettronica, ideata e coordinata da Don Luigi Garbini, che abbiamo ascoltato in un'intervista che ho realizzato pochi giorni fa nella chiesa di San Marco a Milano. Sia Garbini sia Baroffio, come abbiamo ascoltato poc'anzi, mettono in evidenza un dato che peraltro è sotto l'occhio, anzi forse sarebbe meglio dire sotto l'orecchio, di tutti, ossia la grande povertà musicale che interessa l'attuale celebrazione eucaristica. Ma entrambi ritengono che sia più che pertinente progettare interventi musicali che prevedano anche l'uso di tecnologie informatiche all'interno della liturgia. Ma affinché questi interventi compositivi non risultino estranei al contesto che vanno a incontrare, ossia i fedeli, l'assemblea, quali dovrebbero essere le strategie da attuare? Ascoltiamo cosa risponde Giacomo Baroffio. Secondo me bisognerebbe cominciare da comunità molto piccole e ristrette e direi che in fase sperimentale sarebbe bene farlo in occasioni non liturgiche, cioè io comincerei subito con la messa, Lo congiungerei, per esempio, con un incontro sulla parola di Dio, quello che una volta si chiamavano le paraliturgie, momenti che hanno molti aspetti in comune con la liturgia e sono soprattutto momenti preparatori, propedeutici, ci introducono, perché c'è anche molta più libertà, si può al limite intervenire parlando, dando suggerimenti, mentre nella liturgia bisognerebbe già arrivare non in fase sperimentale, ma sperimentata, uno già vissuto, sa. Allora a questo livello, secondo me, sì, sarebbe anche interessante che il compositore elettronico in quel momento interagisse con l'assemblea, cioè facesse cantare e facesse poi ascoltare all'assemblea o al gruppo rappresentativo dell'assemblea le elaborazioni che sta sviluppando, chiedendo eventualmente in quale voi vi riconoscete, che cosa, non so, vi attrae in questo, che cosa vi sembra troppo estraneo. E allora si può essere una sinergia che aiuta gli uni e gli altri. E questo è possibilissimo, anzi, sarebbe auspicabile. Certe cose che esigono un'elaborazione tecnica più complessa, uno può farle anche al di fuori della liturgia, però dovrebbe sempre renderne conto e spiegare il perché è opportuno fare questi interventi. Ma dopo aver rotto il ghiaccio, cioè dopo aver permesso alle comunità di comprendere che cosa l'elaborazione elettronica può dare a chi canta. Apparentemente quando si canta la voce fluisce, ed è giusto che sia così, ma io chiamo la musica elettronica la radiografia, oggi si dovrebbe dire, aggiornati, l'ecografia del parto, cioè la sofferenza. È una cosa fluida, sì, che esce, ma esce con fatica. Esce dopo una sofferenza, dopo un'esperienza di gioia. Non sono solo suoni che escono, sta uscendo la vita. Ecco, la musica elettronica permette di frantumare questa massa in forme e vedere i vari aspetti, i vari elementi. Per cui è interessantissimo, per esempio, scomporre anche solo delle vocali, delle sillabe, far sentire delle risonanze particolari, i timbri, che noi diciamo un timbro, ma poi il timbro è una molteplicità di suoni che si arricchiscono. Ecco, questa rifrazione che poi viene di nuovo unificata nel suono finale. Questo potrebbe aiutare la comunità a vedere che la voce dice molto di più di un suono. È la nostra persona, la nostra esperienza. E la musica elettronica rivela questi aspetti. Chiarissimo dunque, Baroffio, sulla necessità di progettare un iter lungo e complesso che dovrebbe prevedere una collaborazione concreta, attiva tra compositore e fedeli. Baroffio termina sottolineando quanto l'elaborazione elettronica può essere funzionale ad una espressività che veda un connubio tra nuovo e autentico. Quindi mi sembra legittimo sottolineare il senso di responsabilità, di eticità di cui dovrebbe farsi carico il compositore che intenda confrontarsi con un contesto, e in questo caso specifico con un contesto liturgico. Su questo punto ho chiesto anche un parere a Don Luigi Garbini. La ragione per cui alcuni compositori non hanno accettato di partecipare, non solo per mettere in crisi o per eccessivamente il loro rapporto con la Chiesa, quindi anche il rapporto con l'istituzione della Chiesa, non solo il loro approccio spirituale, ma anche perché sentivano molto distante questa loro responsabilità, forse, nei confronti del suono al servizio appunto della liturgia, e quindi il problema di come gestire un suono che poi diventa comune, diventa per ciò stesso, assume valore etico, non so come dire, tanto quanto uno potrebbe decidere di scrivere un brano per commemorare o per ricordare o per provocare una riflessione, semmai la musica lo fa, ma in maniera diretta, ma sicuramente è come quando opere hanno valenza sociale, no? Quando si pongono questo tipo di obiettivo, è chiaro che questo comunque, reagendo in termini spirituali, ha una valenza collettiva, ce l'ha una responsabilità. È anche il grande rapporto della musica d'uso, per cui quando il compositore si pone il rapporto tra la propria libertà comunque di fronte a qualcosa che ha già delle griglie molto precise, fu tutto il lavoro fatto all'inizio dell'equipe di capire quali erano non solo il rapporto alla lingua, alla partecipazione dell'assemblea, tutte cose abbastanza nuove e problematiche, ma il problema generale di come garantire che la propria presenza, la propria creatività, però in funzione di qualcosa che ha una responsabilità collettiva. La liturgia opera un ridimensionamento, che comunque per un compositore vero credo sia un aspetto difficile, certamente, ma un aspetto anche intrigante, perché più il compositore più limiti ha e più la sua creatività invece è stimolata, paradossalmente. Questo lo credo profondamente. Era la voce di Don Luigi Garbini. E concludiamo questo ciclo di trasmissioni con l'ascolto di un brevissimo estratto da Klang, Freud, seconda ora, di Karlheinz Stockhausen, uno degli ultimi lavori del maestro tedesco recentemente scomparso. Il lavoro fu commissionato proprio da Don Luigi Garbini per essere eseguito nel Duomo di Milano, dove è stato in effetti eseguito il 7 giugno 2006. Il lavoro è per due arpiste che, oltre a suonare i loro strumenti, intonano parti del Veni Creator. Le arpiste sono Marianne Smith e Esther Coy. Con questo ascolto, Emanuele Pappalardo ringrazia tutti gli ascoltatori per l'attenzione e Marco Di Battista per l'invito a realizzare queste trasmissioni e la concreta, paziente e costruttiva collaborazione.